Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli e sono davanti a un oggetto strepitoso. È un oggetto di una pietra rarissima, un vero e proprio scherzo della natura, la agata sardonica, così si chiama questa pietra. E questa pietra è molto antica, veniva naturalmente dall'Asia, veniva dall'India, veniva dalla Persia e durante l'età imperiale romana queste agate sardoniche, che venivano chiamate murrina vasa, erano contese a suon di milioni di sesterzi, perché erano preziosissime. E noi abbiamo la documentazione attraverso gli scrittori latini che c'erano persone disposte a fare delle follie. Nerone ne comprò una di queste murrine a un milione di sesterzi. La tazza che ho davanti è un oggetto straordinario, perché venne probabilmente incisa nella durissima agata sardonica in età tolemaica, cioè siamo ad Alessandria d'Egitto e siamo grosso modo al tempo di Cleopatra. Anzi, Cleopatra aveva posseduto probabilmente questa tazza, che venne poi presa, pensate da chi? Da Augusto, che la portò a Roma. Poi probabilmente fu la famosa tazza che Nerone comperò per un milione di sesterzi. E questa tazza, pensate, nei secoli è passata di mano in mano a Federico di Svevia, è passata a Alfonso d'Aragona, è passata a Lorenzo de' Medici, è finita in mano al Papa Sisto e poi è andata in mano ai Farnese, che gli hanno lasciato il nome, e poi ai Borbone, che l'hanno portata a Napoli. Perché parliamo di questa tazza? Perché è bellissima e poi perché per fortuna la vediamo intera, perché nel 1925, proprio qui nel Museo Archeologico, subì un danno tremendo. Pensate, un custode si arrabbiò con il direttore del museo e per punire il direttore prese un ombrello e prese ad ombrellate la tazza che era stata di Cleopatra, di Augusto e tutti questi personaggi. La tazza è andata in 12 pezzi, per fortuna l'hanno fotografata immediatamente e subito rincollati. Nessuno oggi si accorge di questo danno, per fortuna, ed ammiriamo questa meraviglia della natura, cioè questa tazza in agata sardonica, detta tazza farnese.